La partenza del crociato. Passa un giorno, passa l'altro, mai non torna il nostro Anselmo, perché egli era molto scaltro, andò in guerra e mise l'elmo. Mise l'elmo sulla testa per non farsi troppo mal e partì, la lancia in resta, a cavallo d'un caval. La sua bella, che a bracciollo, gli diè un bacio e disse «va». E poneagli ad armacollo la fiaschetta del Mistrà. Poi, donatogli un anello, sacro pegno di sua fe, gli metteva nel fardello fin le pezze per i piè. Fu alle 9 di mattina che l'Anselmo uscì a bel bel per andare in Palestina a conquidere la vel. Giovanni Visconti Venosta.